quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Signori, in nome della legge, vi dovete soltare. Amici dei fascisti, capito? Avete ragione! State fuori di testa, quanto voi che volete pippati! Mortacci vostri! State difendendo i fascisti che speculano su un morto! Non abbiamo paura di quattro buffoni e non ce l'avremo mai! Noi veniamo qua a dire le nostre cose perché è a difendere il nostro popolo. Siamo qui a difendere il popolo italiano come abbiamo sempre fatto, come abbiamo sempre fatto. Rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Campi rom abusivi e successivamente regolari non devono esistere, devono essere spianati. Galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione. I campi rom abusivi debbano essere sgomberati, poi con la ruspa, con la pala, con il piccone, con la cariola, col mezzo che riterrà più adatto, ma non c'è dubbio. Che cosa vuole che le dica sulle ruspe? Io credo che qualunque persona di buon senso sa due cose. La prima, gli italiani sono stanchi di vedere degli accampamenti in cui non si rispetta la dignità e il vivere civile, e gli italiani sono stanchi, e quindi okay, una soluzione va trovata. Rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Oh ragazzi, qui il problema dei campi rom è il problema numero uno in Italia ormai. Il dibattito politico si è incestato su questo, si parla solo di questo. Il primo audio era la manifestazione ieri di Casa Pound, con tanto di contestazione dopo l'incidente lì a Boccea, la tragedia, i campi rom, basta campi rom, difendiamo l'Italia. È così, è la sicurezza, bellezza, il nuovo fronte su cui anche Renzi ora si dovrà misurare. Questo è il dato di fatto, eh? E perché dai, parliamoci chiaro, poi la questione, Salvini ha vinto per questo, cioè ha vinto, voglio dire, ha avuto un grande esploit alla Lega perché intercetta quelle che sono le paure della gente, i timori, no? I campi rom, la sicurezza, i furti. E quindi Renzi lo insegue su questo. È politica, è la politica, bellezza. In galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. Allora, questa è 24 mattino, sono le 6:30 minuti. Ho un mal di gola terribile, un raffreddore terribile. Ma come si va ad avere un mal di gola in questa stagione? Peter Bescapè, in regia, tu alpino, cioè figurati, puoi andare a marciare a meno 30 gradi sulle Dolomiti che non ti succede nulla. Sei un organismo geneticamente modificato. Allora, voi ci siete? 349-238-6666. E questa vi potrei porre come domanda: è la sicurezza il nuovo fronte su cui si misura la politica, oppure è tutta fuffa, è tutta panna montata, è un po' esagerazione? Diteci la vostra. E saluto anche Lorenzo Nespoli, che è qui in redazione. E qua potremmo aprire subito il Parlamento a questo punto, C'è il ministro Boschi? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Noi, grazie. Vabbè. Caffè e poi si ferma con noi. Allora, intanto saluto il grandissimo ritorno, la farfalla di Radio Capital, Vladimir Luxuria. Eccoci qua, Vladimir, buongiorno. Ma buongiorno a voi. Dalle 9 alle 10, il geco e la farfalla. Beh, tu sei la farfalla, si sa. Grazie, leggiadra, leggera. Sì. Di fiore in fiore. Di fiore in fiore. Da Radio 24 a Radio Capita. Ah, ma una sì. Farfalla. Ma sì, ma facciamo questi crossover. Ti piace? Com'è la pronuncia, tu che sei? Sei sempre avanti, sei. Questa roba che abbiamo, che sei laureata in inglese, mi ha colpito. Cioè, ma sei, non sei madrelingua, no, però. No. Sono foggiana di adozione europea, laureata in inglese a pieni voti, 110 e lode, anche lodata da qualcuno. Ah, 110 e lode. Ti rendi conto? Mamma mia, ragazzi, mamma. Allora, siamo Vladimir Luxuria, voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Massimo, buongiorno e ben ritrovato, come va? Buongiorno. Oggi Libero, insomma, potevi dormire, dici? Potevo non alzarmi presto comunque. Vabbè, ma guarda che il patto è che quando noi ti chiamiamo tu puoi anche dire no, guarda, voglio dormire, cioè non sei obbligato, no? Non... Ma no, lo so, stamattina dovevo alzarmi presto comunque, infatti ho detto di sì. Ah sì, quindi voglio dire, dovevo alzarmi presto, quindi posso venire anche a Radio 24 a sparare due cazzate, ecco. Esatto. Questo è l'atteggiamento. Bene, molto bello sapere che siamo nei vostri cuori con grande passione. Allora Vladimir, ti piace Michele Emiliano in Puglia, via Vendola? Ma che farà Vendola? Andrà veramente in Canada, tu, non so, a vivere col compagno? No, sta qua, che fa? Ma può essere, lo ha anche già detto, può essere, insomma, che coroni il suo sogno di potersi sposare dove ci si può sposare, cioè in Canada, perché comunque il suo compagno è di origine canadese, sì. E quindi di realizzare il suo progetto, questa volta sentimentale, visto che comunque ha rivestito tanti ruoli, commissione antimafia, presidente della regione, presidente anche di un leader di un partito, insomma, quindi perché no? Insomma, non è che uno per forza deve a vita fare politica, no, infatti. Beh, oddio, i nostri politici in genere prima che mollino, poi insomma devono. C'è chi sogna di sposarsi con qualcuno all'estero e c'è chi non sognerebbe mai di divorziare dalla propria sedia, hai ragione. Ecco, effettivamente. Vabbè, Emiliano invece ti piace? Devo dire che l'ho conosciuto personalmente, è una persona che stimo molto, è molto apprezzata dai pugliesi, e il centrosinistra ha retto, diciamo che il tacco della mia Puglia regge bene. Rimane di sinistra, evviva. Allora, qui c'è però la questione della sicurezza. Oggi anche voi, Massimo, dite: ma cos'è questo titolo che mettete a pagina 3, che Renzi vuole dare le case ai Rom? Diciamo, vorrebbe. Allora, è abbastanza chiaro che anche da parte del governo si capisce che questa gestione dei campi Rom non va bene. Adesso vanno, non dico spianati con le ruspe, questo lo direbbe Salvini, ma vanno chiusi, non possono essere più tollerati. E chi ha in mente Renzi? Spianate con le ruspe non è una parolaccia, cioè tutto un equivoco su questo spianare con le ruspe, perché è chiaro che vanno chiusi e spianate con le ruspe, cioè non con la gente dentro, ma che, no, non è mai stato, no? Ma è quello che dice anche l'Unione Europea, cioè ci stanno addirittura per multare per come stiamo gestendo la questione. E sono posti di degrado assoluto, sono posti di indecenza anche dal punto di vista sanitario, sono posti assolutamente in molti casi spettacolo di criminalità, come si è visto anche abbastanza di recente. Però una volta che sono chiusi che si fa? Perché, cioè, voglio dire, voi dite che vorrebbero in qualche modo dividere tra coloro che hanno un reddito, quelli che vivono lì hanno un reddito, si comprino una casa, quelli che non ce l'hanno invece... Quelli che non ce l'hanno. Quali sono quelli che non ce l'hanno? Sono quelli che ufficiale almeno. Parliamoci chiaro. Quelli che non ce l'hanno fanno come fanno gli altri italiani che non hanno un reddito. Avranno diritto a sussidio se ne hanno diritto. Oppure entrare nelle liste delle case. Ma infatti, ma guarda, che era la domanda che io da giorni facevo a tutti. Oggi ne parleremo. Avremo Emanuele Fiano del Partito Democratico, avremo Edoardo Rixi della Lega in Liguria. È la domanda che facevo da giorni, cioè non si capisce perché. Non so, tu, Vladimir Luxuria, hai capito perché devono esistere i campi Rom, oppure non si possono chiudere e dire alle persone che sono dentro: dite, scusate, potete fare come tutti in Italia, in tutto il mondo, cercarvi una casa se volete andare a vivere vivere insieme, cercate da vicini, come dei buoni parenti. Se volete stare lontani, state lontani. E che problema c'è? Non l'ho capito io, Vladimir. Intanto bisogna scopriremo anche chi ci mangia dietro tutto questo business, questo no? Sì, anche questo della gestione sì. Dei campi rom. Ha maggior ragione, chiudiamo. Io devo dire abbiamo già scoperto. Qualcosa sì, esatto. Qualcosa Roma si è scoperto. È sinceramente vergognoso che ci siano i campi rom, ma io lo dico sia per la sicurezza, diciamo, degli italiani, ma anche per la sicurezza dei rom stessi. Quante volte si leggono episodi di cronaca nera di bambini che rom che restano bruciati vivi in questi camper dove c'è una situazione di grande pericolosità per quello perché sempre che riguarda le bombole a gas. Quindi è una questione di sicurezza soprattutto per loro e di dignità per loro, perché comunque vivere in quelle condizioni è davvero da persone disumane. Quindi io credo che lo possiamo chiamare superamento, io preferisco poi i termini superamento, sì, sì. Io preferisco superamento, l'abolizione, solo che poi effettivamente questi rom non è che poi si polverizzano nel nulla. Dove vanno messi? Dove vanno? Allora, quindi bisogna decidere dove. Allora, non è che si togliamo i campi rom e poi ci ritroviamo accampati lungo l'argine di un fiume. Bisogna decidere, visto che credo che ci siano anche dei fondi europei sì. Che vanno destinati a questa situazione qui, bisogna decidere di dare delle sistemazioni sì. Alloggiative, intendo quattro mura anche a loro, senza togliere però ovviamente il diritto alle persone italiane che ne hanno bisogno di poter avere la loro casa, considerando anche, diciamo così, il tempo in cui sono già nella lista di attesa. Sai che però io questa cosa che fatico a capire, cioè perché non c'è un fondo europeo per alloggiare i valtellinesi? Della Valtellina, non c'è un fondo europeo per alloggiare i calabresi? Lo so, però è si tratta di una situazione diversa, nel senso che queste sono popolazioni che provengono da un'altra nazione, popolazioni che adesso stanno qui. Allora, sì. Se ci sono dei fondi europei già destinati a questo, quindi non è una spesa che ricade sulle casse italiane, che non è che godono proprio di tutta sta grande salute, utilizziamoli per questo. Il dato di fatto è che, voglio dire, quello che è successo ieri sarà stata una piccola manifestazione, ma è sintomo di grande tensione, cioè laddove... Posso dire una cosa perdonami Milan. Su Casa Pound. Ma Casa Pound, ma anche certi giornali, anche lo stesso Libero, con tutto il bene... che li voglio, perché sono giornali che se possono spendere una parola buona su di me evitano di farlo, quindi li voglio molto bene. Però a parte questo, cioè veramente eviterei non di fare discriminazioni tra criminali di serie A e criminali di serie B, ma tra vittime di serie A e di serie B. Io non credo che quella donna, quella ragazza palermitana che stava andando a lavorare a Palermo e che è stata travolta da un italiano che stava sotto estasi e che non aveva neanche la patente sia meno stronzo, scusami il termine, del rom che ha falcidiato una ragazza, tra l'altro filippina. Allora basta pensare all'etnia di chi compie queste criminalità e dedicare pagine e pagine, titoli e fomentare l'odio in base al colore della pelle o all'accento di compie un delitto. È il tema di cui si è discusso molto. Esatto, questo è il problema, perché a volte la gente utilizza, strumentalizza queste questioni per una manciata di voti in più, per un consenso in più o per vendere qualche cosa in più. E questo è insopportabile. Devo dire che sì, certo, Massimo, di quello che pensi, no? Siamo al Parlamento, no? È molto semplice, è evidentissimo che non è che ci sia un pirata diverso da un altro. Il problema è che in questi casi qui vengono fuori delle realtà che ci sono e si sa già che ci sono, vengono semplicemente scoperchiate da un episodio. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, succedono degli episodi che scoperchiano. Allora, mentre invece la ragazza che viene investita dall'uomo impasticato di ecstasy, c'è una persona che deve rispondere del suo delitto in prima persona, eccetera. Qui c'è qualcosa di un po' di diverso, nel senso, prima di tutto ci sono delle persone, c'era un minorenne alla guida di questa auto, cioè viene fuori ancora una volta la impunità e la illegalità di certe comunità sì. che fanno quello che vogliono. Allora è chiaro che non sono due delitti diversi da un certo punto di vista, sì. Però è chiaro anche che un delitto è fine a se stesso, rimane fine a se stesso, casomai si solleva di nuovo invece, il problema. E qui invece... L'altro, l'incazzatura non è per solo o sì, dici, viene, fa venire fuori tutta una rabbia che cova, fuori, che cova, che c'è una per... situazione che c'era già, cioè la gente non scende in campo, in piazza solo perché è stata ammazzata una persona con la macchina. No, ma è chiaro, le voci che si sentono è basta, non se ne può più, esatto. Di una situazione insopportabile. Quello è il culmine di una situazione che ha già esasperato un po'. È così, un po' è così, un po' c'è da dire che anche un po' di speculazione, anche politica c'è, questo è innegabile, voglio dire, sulla campagna elettorale si fa su queste cose. Guarda, mi ricordo Alemanno che diventò sindaco di Roma sulla questione dell'omicidio Reggiani. Se uno vuole monetizzare, no? Sì. Vuole capitalizzare il senso di insicurezza per ottenere un seggio, va bene, è una questione proprio di avidità politica. Se invece uno vuole davvero risolvere i problemi, perché io credo che la sicurezza non debba essere né di destra né di sinistra, ma che roba è? Cioè, io vorrei che mia madre possa andare in giro senza nessuno che la scippi, e sono di sinistra, come credo una persona. A proposito, come va a te nel quartiere? Hai ancora problemi con gli spacciatori? Guarda, devo dire, la situazione è sicuramente migliorata, però insomma i gruppettini a qualcuno c'è ancora, però sicuramente la situazione è migliorata. Non ti minacciano più, perché ti hanno anche minacciata. Adesso insomma qualcuno mi saluta pure, dice buongiorno signora, buonasera signora, cioè, un po' mi temono così. Ecco, vabbè. Però io pure, appunto, vedi, cioè non è che anche questa questione, no? Qualcuno me l'ha detto anche in quartiere, qualcuno, questo è un po' antagonista, sì. Oh, ma che fai? Ho detto guarda che proprio non hai proprio ma capito sì. nulla della no, vita, voglio, la sicurezza è una cosa ma, che ma cosa vuol dire? La sicurezza è un valore di tutti, che ti dicono che fai? Quelli ci portano la roba buona, certo, vabbè. No, però vorrei farvi sentire quest'audio del mitico, e qua abbiamo Vladimir Luxura che magari ci può aiutare. Tu capisci il dialetto di Cerignola? Sì, però sinceramente adesso questo abbinamento... No, vabbè, lo capisci il dialetto di Cerignola o no? Cerignola, io amo la bella di Cerignola, la bella di Cerignola è la famosa oliva verde... Però sai che c'è Gerardo... Perché adesso la gente individua Cerignola solo per questo bevi l'acqua, no, però questo che tra l'altro ha fatto un disastro, che non sia stato eletto... Ma quanto ha preso? Ma non lo so, però si lamenta, dice che vuole ricontare i voi. Brogli, senti qua, aiutaci anche un attimo. Sì. Traduzione simultanea. No, il ricorso. Noi vogliamo solo che loro ci vanno a vedere tutte le schede, tutti i voti, tutte le schede. Riconteggio? Sì, tutto. Ma ci sono schede manomesse? Ma io voglio quante schede manomesse. Cioè, le schede manomesse, poi ci sono i voti. I medici, i voto meglio passano dal lotto in questione, capito? Lo hanno fatto di notte. Che ha detto? Vabbè, ha denunciato dei brogli, ha preso 521 voti. Gli hanno tolti i voti di notte. Gli hanno tolti i voti di notte. Però qualcuno che non sapeva l'italiano, sì, e che parlava l'italiano, l'ha trovato anche in Parlamento. Sì, vabbè. Non è che comunque ha preso l'1,8%, poi sentiamo ancora un po' che dice, dovevo prendere 11.000 voti, che dice, senti ancora un po', bevi l'acqua. Quanti voti pensavi di prendere? Io, 10.000. 10.000? 10.000 voti. 11.000 voti. Non niente. Non niente. Io non tengo niente, voto non lo tengo. Non ci sei manco voto me. Manco voto mi chiede, manco voto i figli miei. Ecco, all'inizio l'ho seguito, poi ho preso... Traduzione, ha detto anche che auguravo... Ecco, chi? 10.000 voti, non c'era neanche il suo voto della moglie e dei figli, manco quelli l'hanno votato. Però cioè, lui non ha votato neanche se stesso. Però questo... Massimo De Manzoni l'ha capito, cioè questa è la notizia, Massimo De Manzoni da Verona, ha capito, bevi l'acqua, l'Italia è una poi, ancora, bevi l'acqua, dai, prima di andare al traffico, bevi l'acqua. Mi possono solo arrestare. vennero qua, tutti i ribellioni, quando mi arrestano, e hanno vinto tutto. Fin quando io qui, sto qui, come ribellione, hanno pigliato sempre pagato, ma una cosa solo possono solo fare, ma voi non avete mai nessuno, mi devono mandare in galera, vabbè, solo questo... loro non vincono me, non vincono me. Vabbè, mi devo mandare in galera perché se no sto qui perché? Che è? Cioè, ci sono i brogli, Vladimir, che, qual è? Senta, persino io che sono pugliese hai fatto fatica, hai fatto fatica su questo ultimo concetto culturale espresso da Bevilacqua. Allora dai, andiamo a sentire il traffico che poi entriamo. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. 24 mattino. Alino, smettila di parlare di pensioni, nessuno ti ruba nulla, datti da fare, cerca di far trovare soldi da altre parti perché ci sono. La decisione di Carlo Ancelotti di non andare al Milan è stata sono troppo stanco. A Carletto, ma se tu fossi rimasto al Real Madrid o ti avessi chiamato, che ne so io, il Chelsea o il Manchester City, avresti detto le stesse cose? Alessandro Milan, sei sempre più cretino. Invece di augurare di morire agli anziani, perché non auguri di crepare a quelli che queste leggi non le fanno? Idiota. Caro Milan, come stai, eh? Ci vuoi cancellare le pensioni, te e quelli da avvenire? Ma di a quelli da avvenire che invece di cancellare le pensioni, se cancellassimo l'8 per 1000 non sarebbe meglio? Qui sì, è una cosa semplice. Chiariamo subito, io non ho mai augurato a nessuno di morire, non ho mai augurato a nessun anziano di morire, ci mancherebbe, semplicemente sto dicendo da mesi, come dicono molti, come dice Boeri all'Inps, come dicono varie proposte, dice perché se si calcolasse tutto col contributivo le vecchie pensioni, magari tassare la parte eccedente rispetto al retributivo, cioè non si capisce perché tutti no, devono avere pensioni di questo tipo. Però vabbè, sentivo subito Vladimir Luxuria che appoggiava quello che voleva cancellare l'8 per 1000 alla chiesa. Beh, no? Ci sono un po' di cose ancora, di vantaggi fiscali, la questione dell'IMU che insomma dovrebbe davvero essere risolta, è una questione proprio di concorrenza leale, sì. Perché insomma non è mica giusto che se uno ha un ristorante deve pagare comunque tutte le tasse, e se poi c'è il ristorante diciamo di appartenenza così parrocchiale, ma le paga. Tasse non le ma paga, in realtà se sono poi a fini commerciali le pagano. Comunque la questione è De Manzoni, mi attaccano, mi dicono che io voglio far morire gli anziani, ma non è vero, però semplicemente anche voi, visto che fate questa battaglia, il problema anche perché ci stiamo avvicinando anche noi, no, ma no, quella fascia. Però Massimo, non lo so, sembra così scandaloso dire che anche gli anziani, cioè quelli che hanno le pensioni, ma proprio per tutelare i giovani, le generazioni future, quelli che la pensione non la vedranno mai, cioè è così scandaloso dire facciano sacrifici tutti, se proprio tutti li devono fare. Certo, la politica dovrebbe essere la prima a farli, no? In linea di massimo non è scandaloso, Alessandro, ma tu sai benissimo che noi stiamo raccontando i privilegi dei politici certo. In fatto pensionistico certo. in questi tempi, e chiedere alla gente di fare sacrifici quando vede questi sprechi, lì è il problema, è difficilissimo. Sì, però che differenza c'è tra uno che si è trovato esodato dal mattino alla sera e a quello il diritto gliel'hanno negato, e invece un altro che magari ha 2.500 euro di pensione calcolata col vecchio sistema e non la si può toccare perché quello no. No, c'è la differenza la fanno le leggi che vengono fatte di volta in volta, però ci sono anche un mucchio di pensioni sociali per le quali non sono stati versati i contributi. Se vai con questo ragionamento puramente contributivo, diventa un problema in Italia. Il 52% delle pensioni che vengono erogate in Italia non sono coperte dal contributo. Ma perché? Perché noi abbiamo un sistema nel quale non c'è solo c'è dentro assistenza, sì, oltre che sì. Previdenza. Ma allora perché io devo andare in pensione? Non abbiamo mai separato le due cose. Rifacciamo la domanda: perché è stato deciso con una riforma che io devo andare in pensione col contributivo, ma anche te, anche Vladimir Luxuria, invece quelli che ce l'hanno col retributivo la tengono e va bene così? Ah, beh, perché perché quando hanno fatto quella riforma non sono andati a toccare i certo. È questo che sto dicendo, non sto dicendo sì. Mica di ammazzarli. Tu hai ragione in linea di principio astratto, però bisogna anche calarsi nella realtà. Io vado in pensione con un certo assegno e so che andrò in pensione con quell'assegno e calcolo, imposto la mia vita, le mie cose in quella funzione lì. Se tu mi cambi le carte quando io non posso più cambiare a mia volta, mi hai fregato. Se io so che vado in pensione con 1.000 euro, magari mi do da fare per farmi una pensione integrativa, sto a lavorare 5 anni in più perché... Se diventa di colpo di 700 mi hai fregato. Tu mi impoverisci da un giorno all'altro, ma cambiandomi le regole quando io poi... Come gli esodati. Non posso più giocare, quindi fai... Un'altra forma di esodati. Vladimir, su questo sono d'accordo, nel senso che a parte il fatto che oggi gli anziani sono i veri ammortizzatori sociali della nostra società, con quella pensione aiutano, tengono i figli degli nipoti e soprattutto aiutano spesso i nipoti disoccupati. Ma capisci che è tutto sbagliato? Cioè allora, il sistema è tutto sbagliato. Voglio dire, però uno effettivamente ha ragione, cioè uno comunque si ha delle aspettative di vita, si fa dei calcoli, decide anche quando smette di lavorare anche in base a questi calcoli. Io però credo che la discriminante sia sinceramente gli importi. Sì. È chiaro che uno che guadagna le pensioni molto alte può fare più sacrifici rispetto a chi è comunque ha delle pensioni, diciamo così, medie, se non addirittura basse. E la campagna, devo dire che anche Libero sta facendo, e questo gli do atto, insomma, di denunciare tutti quelli che guadagnano troppo, privilegiati, che guadagnano come troppo, li chiamano i magnoni, i papponi, cioè sono persone che hanno versato un minimo e che ottengono un massimo, sì. Ecco, quello sì veramente è vergognoso. Ecco, ricordiamolo in chiusura, ringraziando che Vladimir Luxuria non ha il vitalizio, perché c'è ancora chi scrive, ma la manteniamo ancora, ma no, basta, si mantiene lavorando a Radio Capital e facendo altre cose. Grazie a Vladimir Luxuria dalle 9:10 la farfalla insieme al Geco su Radio Capital e Massimo Le Manzoni, vice direttore di Libero. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, 7:18 minuti, cari amici miei debosciati. Il mal di gola oggi mi assiste e persiste. Non mi persiste, ma persiste e basta. Va bene, ma ce la facciamo. Siamo qui in diretta fino alle 9. Parleremo di sicurezza perché sembra il nuovo fronte sul quale anche il governo Renzi si vuole misurare dopo la affermazione elettorale della Lega alle ultime elezioni regionali. Ne parleremo con l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, è responsabile di sicurezza del PD, e con Edoardo Rixi che invece è il vice segretario della Lega federale in Liguria. Avremo con noi anche l'avvocato Antonio Gugliotta che difende i Rom che sono stati presi a Boccea, no? La tragedia, l'uccisione della Filippina. Parleremo di questo alle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. È giovedì 4 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre ancora sulla Grecia, Atene intesa più vicina, Berlino vuole l'accordo, questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera invece, sempre sulla vicenda De Luca, oggi ha un'intervista a Filippo Patroni Griffi, ex ministro all'epoca del governo Monti, che ha scritto, è il coautore della legge Severino. Renzi a tempo su De Luca, questo è il titolo di prima pagina. Su questo tema invece si concentra il Manifesto con la foto di Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità anticorruzione, che ieri ha detto anche qui la legge Severino potrebbe non essere applicata subito. Il titolo del Manifesto è La Cantonata. I posti di lavoro che aumentano ad aprile, il Messaggero, aumenta i posti di lavoro, è il titolo di prima pagina. Per la Stampa, il lavoro cresce, Renzi apre al dialogo. Repubblica, cresce l'occupazione anche per i giovani. E poi Grecia, accordo vicino.

Vi segnalo un articolo su Repubblica, invece una storia. Siamo stati in provincia di Brescia, lo fa Matteo Pucciarelli, che si finge un'altra persona e ha frequentato per 3 giorni il corso tenuto da Luca Di Tolve, quello che fu reso famoso dalla canzone di Povia, Luca era gay e adesso sposa lei, faceva più o meno così quella canzonaccia. E cosa fa Luca Di Tolve? Ora tiene seminari per redimere gli omosessuali, guarire gli omosessuali, al corso che vuole guarire i gay. Prega con noi e tornerai etero. Questo è incredibile, io l'ho letto, è un reportage incredibile, davvero, dove ci sono delle cose che sembrano tirate fuori dal 1320 e invece siamo nel 2015. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, no! L'intervista al rapper Moreno, che ha fatto il tunnel a Pavel Nedved e si è preso una legnata sul ginocchio alla prima occasione utile che Pavel Nedved, da rancoroso, gli ha tirato dietro. Pavel Nedved, la furia cieca. No, sul Fatto Quotidiano l'intervista a Moreno, che dice: certo, lo rifarei, e come il tunnel a Nedved è stata una soddisfazione pazzesca. Moreno, ma chi se ne frega. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qua, cari ascoltatori, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, leggere i giornali, commenti, post, voto, si capisce, si intuisce che è la sicurezza il tema sul quale si animerà il prossimo dibattito politico, è il confronto politico, per carità non è l'unico tema, ce ne sono tanti, l'economia, il lavoro, eccetera, tantissimi temi. Ma se avete visto anche le elezioni, quante trasmissioni televisive e dibattiti sono stati incentrati spesso su che cosa? Il tema degli immigrati, la gestione dell'immigrazione, il rapporto tra noi e la comunità rom. Certo, non aiutano anche le tragedie che sono avvenute come quella di Boccea. Allora, è su questo voglio chiedere che si misura secondo voi il successo di Matteo Salvini e della Lega? E di più, è su questo che il governo Renzi, almeno a leggere alcuni giornali, in qualche modo inseguirà politicamente il consenso per strapparlo invece al consenso della Lega, del centrodestra? Perché alcuni giornali la pongono proprio così, e cioè un governo che punta ora a affrontare la questione, per esempio la questione dei campi nomadi, che di colpo sembrano non più tollerati, non più graditi a nessuno. L'idea è quella del superamento. Anche perché guardate che il clima nelle città, soprattutto nelle grandi città, ieri a Roma l'ennesima dimostrazione, non è dei migliori. Signori, in nome della legge vi dovete ascoltare! State difendendo i fascisti! State commettendo un reato! Questa manifestazione non è autorizzata! Un sit-in di Casa Pound ieri e il corteo antirazzista che si sono fronteggiati, la tensione sullo sfondo, la tragedia di Boccea. State fuori di testa, quanta cocaina avete pippato, mortacci vostri. Il clima era questo. E poi guardate, basta aprire oggi le agenzie di stampa, le notizie che sentiamo anche il giornale radio. Nuovi arresti, 44 nel capitolo 2 della cosiddetta mafia capitale. Molte persone arrestate, è stato arrestato anche un consigliere regionale, Luca Gramazio, della regione Lazio, questa mattina. L'accusa è sempre di speculare da parte delle persone arrestate, speculare sul business legato agli immigrati, alla gestione dei campi di accoglienza. Allora, voglio salutare l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico. Buongiorno, onorevole Fiano. Buongiorno a voi. Saluto anche Edoardo Rixi della Lega in Liguria, neoeletto in Consiglio regionale. Buongiorno e ben trovato, Rixi. Eccoci. Buongiorno. Allora, le faccio subito sentire che cosa ha detto Toti. Toti è il nuovo, colui che ha conquistato la Liguria, per vostra grande gioia. E senta, Rixi, cosa ha detto subito? Una delle prime cose? Non siamo disponibili ad accogliere nuovi profughi in questa regione. Molto chiaro, non siamo disponibili a accogliere nuovi profughi, insomma questa richiesta del Viminale, il Ministero dell'Interno, di accogliere nuovi migranti. Che cos'è? Un atteggiamento di responsabilità, di accoglienza, le pare, Rix, oppure di fermezza e di non collaborazione? Beh, io devo dire, mi sembra un atteggiamento di buon senso. La Liguria è una regione dove si deve rilanciare il turismo, siamo di fronte a una stagione estiva molto difficile per i nostri operatori. Qualche settimana fa il Viminale aveva chiesto alle prefetture di fare una lista di strutture alberghiere da trasformare sostanzialmente in campi profughi improvvisati, e questo non è accettabile, perché vuol dire far perdere in un momento economico così difficile anche la capacità di attrarre flussi turistici importanti a una regione che deve uscire da questa situazione di stagnazione economica in cui è finita. Quindi è un po' la stessa cosa che ha fatto la regione Val d'Aosta qualche settimana fa. Non è accettabile gestire in questa maniera l'accoglienza. Però gestirla come? Perché sai, ieri poi Totti l'ha ribadito insieme a Maroni, quindi governatore della Lombardia, la stessa cosa ha detto anche Luca Zaia del Veneto, cioè questa circolare del Viminale carta straccia. E che facciamo allora? Come l'affrontiamo? Torniamo a fare politica internazionale. Il problema del Nord Africa non si risolve andando a cogliere tutti i nordafricani in Africa. Bisogna iniziare a ripacificare il Nord Africa, a gestire là il problema dell'accoglienza. Tra l'altro c'è un documento delle Nazioni Unite dove dice proprio questa cosa. A me la cosa che mi lascia assolutamente perplesso della politica italiana, in particolare del governo Renzi, è che non ha operato in quella direzione fino adesso, ma ha gestito la situazione dell'accoglienza come un elemento su cui far dirottare anche importanti flussi finanziari. Non è un caso il problema di mafia, Roma, mafia capitale. Sa, lì poi c'è chi specula, quelle sono inchieste. Però le chiedo, Rixi, ma la Lega vince su questi temi? È per questo che vince? Secondo me la Lega vince anche su questi temi, ma vince su un tema di fondo, che sta cercando di ridare una speranza a un paese che non vedeva più un futuro. Quindi il problema vero, che secondo me questo è uno dei temi, non è l'unico, perché poi c'è il lavoro, l'occupazione, chiaro. Il problema legato alle pensioni, ci sono tanti problemi irrisolti che in qualche modo stanno facendo avere una reazione ai cittadini, che è o non andare a votare oppure andare a votare e votare Lega. No, perché la domanda può essere ribaltata anche per lei, onorevole Fiano, e cioè leggo dai giornali, anche oggi il Messaggero racconta che si vuole superare questa questione dei campi nomadi, per esempio. Poi se vuole però partiamo dalla questione dell'immigrazione, cioè sono questi i temi sui quali rischiate di voler inseguire adesso la Lega? Ma intanto secondo me la migliore notizia di queste ore sono i 159.000 occupati più saldo netto, non trasformazione da contratti a tempo determinato a contratti in tempo indeterminato, ma saldo netto per la prima volta dopo mesi, meno 0,2 di disoccupazione, meno 1,6 di disoccupazione giovanile. I dati Quindi non penso che la Lega si batta solo su quelle questioni. Più in generale non penso che la politica sia una gara tra squadre. Penso che la questione più importante sia convincere gli italiani che la politica può risolvere dei problemi, tra cui il 50% degli italiani che non è andato a votare alle regionali, e convincerli quindi che c'è una soluzione ai loro problemi più pressanti. Per quello che riguarda l'immigrazione e la sicurezza, vorrei dire, anche se non ha fatto molta stampa, diciamo che noi non abbiamo affatto iniziato adesso. Ovviamente fa molto più notizia urlare, ma io lo dico sempre come un mantra per chi mi conosce, per chi legge le cose che scrivo. Negli anni 2009-2011, cioè governo Berlusconi, Tremonti, Maroni, la destra, dati ovviamente del Ministero del Tesoro, il centro-destra ha tagliato 3,5 miliardi di euro alla sicurezza, certificato tra l'altro da una famosa lettera di Maroni pubblicata su Corriere della Sera che scriveva Berlusconi: o mi ridate perlomeno un miliardo nel 2011, il 6 giugno del 2011, o non riesco a tenere insieme il sistema della sicurezza. Quei tagli, nel 2009 poi venne il taglio del blocco delle assunzioni delle forze dell'ordine, nel 2010 venne il blocco degli stipendi. Quei tagli, quel blocco delle assunzioni, sono questioni che paghiamo ancora oggi. Quindi lei dice sono frutto di quei tagli lì. In parte, non del tutto. Negli ultimi due anni, legge di stabilità Letta, legge di stabilità Renzi, noi abbiamo reinvestito 2 miliardi di euro nelle forze dell'ordine, abbiamo riportato le assunzioni al 55% e stiamo facendo in questi giorni, l'anno scorso 500, in questi giorni 2500 nuove assunzioni. Sì, ma lei come giudica il fatto che le regioni, alcune regioni, ha sentito Liguria, Lombardia, Veneto, dicono no all'accoglienza di nuovi migranti? La misura è colma, dicono, e soprattutto è carta straccia quello che ci dice il Viminale. Ma la misura è colma, il problema è che queste cose si possono fare quando qualcun altro se le carica sulle spalle, cioè le cose che dice il consigliere Rixi, e cioè che il problema si risolve andando lì, è quello che noi abbiamo messo, sì, andando nel Nord Africa o comunque davanti a Nord Africa, comunque impedendo questo flusso, sono le cose che noi abbiamo messo nel contratto che stiamo faticosamente cercando di fare con l'Europa e sotto l'egida dell'ONU per intervenire nel Nord Africa. Ma tu devi fare due cose in parallelo, perché tanto né Rixi, né Fiano, né Salvini, né Renzi hanno la bacchetta magica per cui si alzano la mattina, portano lì delle navi e bloccano il flusso di non so quante persone che vogliono venire qui. Nel frattempo, ovviamente anche di fronte all'egoismo dell'Europa, ma una parte di quelli che qui arrivano chiedendo asilo, richiedenti asilo, devono essere accolti. Ma su questo, su questo però c'è, allora, se c'è un muro Veneto, contro la Lombardia, muro, se la Lombardia, il Veneto e adesso la Liguria dicono noi non li accogliamo, è semplice, le altre regioni ne accolgono di più. Cosa vuol dire esattamente? Perché vede, facciamo i numeri del Piemonte. In Piemonte sono 4.000 in accoglienza su una popolazione di milioni di persone, sono circa gli stessi numeri, 5.000 qualcosa in Lombardia, su 10 milioni di persone, cioè stiamo parlando di numeri che se gestiti bene, io non parlo, non stiamo parlando di campi abusivi di Rom, no è chiaro, di non, aventi, hanno un impa- non hanno un non impatto hanno statistico, cioè numerico, certo. Lei dice sono rispetto alla popolazione sono pochi, però guardi anche la Val d'Aosta, che è una regione controllata dal centro-sinistra, ha detto non ne prendiamo uno, è un problema politico, non che dovete esattamente dal centro-sinistra, dall'Unione Valdôtaine. Vabbè, insomma è un problema che dovrete gestire. Però io vorrei iniziare a concentrarmi anche sull'altra questione che ieri ha creato problemi a Roma, e sulla questione dei campi Rom, perché ho sentito il ministro dell'interno Alfano, che vogliamo riproporvi, dire che i campi Rom adesso vanno superati. Adesso tutti dicono che vanno superati, però ci sono questi campi Rom. Alfano. Che cosa vuole che le dica sulle ruspe? Io credo che qualunque persona di buon senso sa due cose. La prima, gli italiani sono stanchi di vedere degli accampamenti in cui non si rispetta la dignità e il vivere civile, e gli italiani sono stanchi, e quindi una soluzione va trovata. Lo so, una soluzione va trovata, lo dice il Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'Interno era da Floris e quindi di martedì. Qua Rixi, la questione è che su questa cosa dei Rom anche Toti l'ho sentito dire... sentite cosa ha detto Totti, governatore, proprio buttarli giù, basta, via. Che i campi Rom abusivi debbano essere sgomberati, poi con la ruspa, con la pala, con il piccone, con la carriola, col mezzo che riterrà più adatto, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora Rixi, su questo state facendo molta politica, dai, le magliette, le ruspe, le magliette di Salvini, che vi hanno fatto sti campi? Beh, è il simbolo di un paese che non ha senso, di un paese dove la legge viene applicata meno in funzione della comunità a cui appartieni e non in maniera uguale su tutto il territorio nazionale, perché chi tiene un bambino in quelle condizioni lì ed è italiano, il bambino gli viene tolto dal tribunale dei minori. Chi nella mia città Genova, famiglie che sono finite a vivere sotto un ponte hanno avuto grossissimi problemi e nessuno gli ha dato una casa, quindi il problema vero è che c'è stata una tolleranza eccessiva nei confronti di queste comunità che hanno utilizzato questo sistema per in qualche modo approfittarsi delle comunità in cui stavano, quindi bisogna dargli la possibilità, chi vuol continuare a fare Rom eccetera, perché bisogna tutelare i diritti di di tutti di poterlo fare, ma come avviene in Germania, in Francia, in Svizzera, con campi di transito controllati, con presidi della polizia, perché è impossibile, certo, che anche sui campi regolari, quando va la polizia dentro, trova macchine rubate, merce rubata. Cioè lei dice non così, con campi che si trasformano in insediamenti. Chi si vuole integrare si integra, ma si paga la casa come fanno gli italiani, pagandosi la fitta, andandosi a cercare il lavoro, non avendo, non so, gli asili nido gratis, piuttosto che le agevolazioni per avere la casa popolare, mentre c'è ancora l'alluvione scorsa delle famiglie che sono a casa da parenti perché non sono riusciti a trovare casa. Secondo me, una io dico, non vanno trattati né meglio né peggio, ma come gli altri, voglio dire, agevolazioni e mettersi in lista per avere un alloggio popolare lo possono fare come tutti i cittadini, voglio dire, no? Assolutamente, né più né meno, né davanti né dietro, ecco. Oggi non è così, però, e da qui voglio ripartire dopo la pubblicità, pare che il governo voglia appunto arrivare a questo superamento, l'avete sentito anche da Alfano, superamento e risolvere il problema dei campi rom dove c'è degrado, dove c'è sporcizia, dove si vive anche in condizioni igienico-sanitarie non buone per gli stessi abitanti. Allora, se volete intervenire 800 24 0024, se potete stare ancora con noi, onorevole Fiano e Rixi, mi fa molto piacere, ci raggiungerà anche l'avvocato Antonio Gugliotta, che è l'avvocato che difende quei rom che sono stati catturati e che erano a bordo di quella macchina che a Boccea ha travolto una filippina tra poco. Sono le 8:38 minuti, anzi 8:39 minuti, il numero per intervenire è 800 24 0024. Siamo con Edoardo Rixi, vice segretario federale della Lega in Liguria e neo eletto in consiglio regionale, con l'onorevole Emanuele Fiano, che è responsabile sicurezza del PD. A proposito, Emanuele Fiano, le chiedo questo: leggo sul Messaggero che si vogliono chiudere i campi rom. L'ha sentito anche lei, il ministro dell'interno Alfano, ma come? Insomma, adesso si vuole superare, chiudere il campo rom, che vuol dire? Cioè, è una domanda alla quale nessuno riesce. Ma guardi che lo stiamo già facendo. Lo stiamo già facendo. Ci sono già delle pratiche in corso. Penso a Milano. A Milano sì, sono stati chiusi, se non vado errato, tra 5 e 7 campi rom. Sì, ma sa qual è la questione che io non ho mai capito? Se posso finire, le racconto come funziona. Sì, dica. No, perché so che è una cosa che interessa anche Rixi. Bisogna avere delle strutture transitorie, cioè delle strutture, e a Milano c'è, dove gli abitanti dei campi rom abusivi o no, che si vogliono smantellare e ai quali si deve offrire integrazione, secondo le regole degli italiani, come si diceva prima, cioè mm-hmm, i lavori, mandi i bambini a scuola, paghi le tasse, hai i servizi, eccetera, eccetera. Siccome devi passare da una condizione di campo ad una condizione di integrarti in una casa normale, sì, hai una possibilità di una struttura transitoria, appunto, perché l'abusivismo e la mancanza di regole a noi, perlomeno dove governiamo noi, non va bene. E capisce che però è proprio questo il punto che io non capisco. Cioè, la domanda che pongo a tutti gli ascoltatori in questi giorni, quando trattiamo questi temi, a tutti gli ospiti, è questa: perché non si può semplicemente chiudere e dire siete in Italia, comportatevi come tutti i cittadini, o italiani o stranieri, molti sono anche italiani, cioè cercatevi una casa, se volete vivere insieme trovatevi appartamenti vicini e fate un mutuo e vivete vicini come buoni parenti, se no, se non volete sparpagliatevi, ognuno. Ma cioè, le rispondo semplicemente perché le cose vanno fatte esattamente come sta dicendo lei. Ma le cose, come dicevamo prima, e lei mi dava ragione, per il flusso degli immigrati del Nord Africa, sì, non le risolvi schioccando le dita. Cioè, se tu hai un campo, adesso a Milano per futuro non hanno queste dimensioni, ma abusivo, con dentro 1000 persone, che secondo me va chiuso perché sì, è ricettacolo di tutto quello che sappiamo. E tu dalla mattina alla sera vai lì con la ruspa, diciamo, abbatti le baracche. Sì, hai solo spostato un problema, diciamo, non puoi. E poi li lasci per strada. Cioè, la politica deve risolvere il problema. Costa risolverli. Beh, guardi, quando Maroni era ministro dell'interno, ha stanziato decine di milioni di euro per la questione dei campi rom. Mm. Governare i problemi non vuol dire dare il titolo. Cioè, non vuol dire si abbattono i campi rom. Ok, si abbattono i campi rom, dopo 5 minuti 5.000 abitanti di Campi Rom. Vanno in giro, vanno qua. In giro. Ma guardi, lo stesso Maroni, proprio su questo, quelli che lui chiamava campi di transito, al nostro microfono, proprio qui a 24 mattino, ha detto un mesetto fa, dice effettivamente quella politica dei campi di transito non ha funzionato, insomma, ha ammesso che non ha funzionato. Ma in altri paesi funziona. Qui non ha funzionato. Allora io intanto fatemi salutare l'avvocato Antonio Gugliotta. Buongiorno avvocato Gugliotta. Ci sente? Sì. Lei difende quante delle quattro persone che sono accusate della strage a Boccea? Praticamente difendo il minore che è stato interrogato ieri. Ecco, avvocato, intanto le devo chiedere questo. È vero che c'è anche sua figlia che difende altre? È vero che arrivano minacce a voi per il fatto che fate... A me no, dico la verità. Qui praticamente un giornalista, credo del giornale, ha mal interpretato un'intervista che è stata fatta a mia figlia, non so, da una radio privata, sì. Ha mal interpretato questa intervista e lo voglio cioè? Dire. Che avrebbe detto sua figlia? Che vuol dire? Detto, mia figlia non ha detto niente, mia figlia ha detto soltanto quello che aveva fatto processualmente e basta, non ha espresso alcun giudizio né alcuna solidarietà, anzi ha espresso solidarietà nei confronti delle parti offese, della vittima. Poi avevano fatto una domanda sulla costituzione di parte civile, benissimo, ha il diritto di costituirsi parte civile, il comune. Senta, avvocato, però lei difende quello che era la guida, ma che dice? Ma è vero che ho letto sui giornali, dice io ho visto la polizia, ho scambiato l'acceleratore col freno e sono partito? No, lui praticamente ha raccontato, ha fatto la cronistoria della vicenda, che aveva prelevato il padre che gli aveva chiesto di essere accompagnato in ospedale, e perché non si è fermato all'alto della polizia? No, ha incrociato l'autovettura della polizia e che ha fatto inversione e evidentemente gli agenti avevano in mente di fare un controllo legittimamente. Lui praticamente si accorre temendo che gli potesse essere sequestrata la macchina. La sento un po' male. Consapevole di non avere la patente di guida di non avere, che l'autovettura non era coperta da assicurazione per la responsabilità civile, è scappato. E quindi praticamente ha riferito al magistrato: io mi sono spaventato, anche perché già in passato mi avevano sequestrato un'autovettura e temevo poi di essere picchiato dalla. Ecco, questa cosa, temevo di essere picchiato dai poliziotti. Sai che questo ha fatto arrabbiare un po' la sua dichiarazione, ma davvero lui ha detto così, cioè temevo di essere picchiato dai poliziotti. Lui ha riferito così, io relatore però, sono stato presente all'interrogatorio, che posso dire, non è che glielo ho suggerito io, l'ha detto lui spontaneamente, anche perché io prima dell'interrogatorio, rimosso quel divieto di colloquio, io ci ho parlato uno o due minuti. Che lui non mi conosceva, non lo conoscevo questo ragazzo. Cioè lei è un avvocato, come è stato scelto lei? Ma dai, anni fa, esercito la professione da più di 35 anni, anni fa ho difeso i nonni, questi sono ricordati stranamente di me, sono venuti da... Cioè lei ha difeso i nonni di questa persona? I nonni, sì, il genitore che abbiamo avuto ovviamente. Cioè il genitore, quindi il padre, quello che è ancora... Il padre mi conosceva, diciamo, l'avvocato Gugliotta, praticamente mi hanno chiamato dalla questura venerdì scorso dicendomi che c'era questo signore che doveva essere interrogato, se capiva se era fermato o non era fermato. Cioè, ma lei l'ha visto due minuti. Ma senta, ma è vero che da minorenne lei che tipo di strategia difensiva potrà imbastire su questa cosa? Il problema è questo, è sotto gli occhi di tutti, il comportamento di tal fatta è un comportamento assolutamente irragionevole, irrazionale, completamente pazzesco, da spiteriato, quindi la cosa fondamentalmente è opportuno, a mio avviso, presentato al pubblico ministero, che venga nominato un consulente per indagare la personalità di questo ragazzo, le spinte negative, perché secondo me è uno che non c'è tanto con la testa. Cioè lei sta dicendo che punterà le semifermità mentali? Le dichiarazioni che ha fatto, lui ha sempre pianto durante l'interrogatorio, tremava, non lo conosciamo, nessuno lo conosce. Ora, nel giudizio minorile, ovviamente il minore deve essere trattato, è un principio fondamentale, principale. Da minore. E quindi, no, anche perché bisogna comprendere il grado di maturità, perché vi è anche la possibilità che il tribunale che giudica un minore lo dichiari immaturo e quindi difetto di imputabilità per immaturità. Quindi potrebbe uscire, cioè nell'assurdo potrebbe uscire domani. Oh, che domani. No, vabbè, difetto di imputabilità, no, che vuol dire? Ma all'esito di un'osservazione. No, certo, facciamo che l'osservazione durerà psichiatri, psicologi, qualche mese. No, questo non posso prevedere. Però no, ma io sto dicendo, nell'ipotesi del difetto di imputabilità non è imputabile, quindi esce. Se il perito dice questo qui è immaturo, il tribunale potrebbe prevenire una decisione di. Vedrai, indubbiamente. Sì. È una delle ipotesi in campo, la stiamo facendo, cioè voglio dire, siamo in una fase iniziale, quindi si può fare anche questa. Non lo so, Rixi, io non so se lei qua, forse su questo tema, anche il fatto che ieri Casa Pound sia scesa in piazza a Roma a protestare, il corteo antirazzista, gli scontri, i confronti con la polizia, cioè non vedete il rischio di soffiare un po' sul fuoco voi della Lega su questo? Rixi. Ma il problema è che se fosse un caso isolato, fosse l'unico caso in tutta Italia, nel tempo, eccetera, è chiaro che non sarebbe il problema. Il problema forse sta dietro anche. Ma sa, di pirati della strada ce ne sono tantissimi, la maggior parte sono italiani, è il 99%. Noi abbiamo chiesto il discorso dell'omicidio stradale, c'è tutta una situazione, ma il problema vero è che è allucinante che quando appunto si va in un campo rom anche quelli diciamo non irregolari si trovano macchine rubate, macchine senza assicurazione, si trova tutta una situazione di un certo tipo. Allora il problema è chiaramente, come posso dire, fa bene l'avvocato a difenderlo perché è giusto che ci sia un processo dove viene difeso il minore, dove vengono difese, però c'è anche un problema di legge, un problema di applicabilità della pena, c'è anche un problema del fatto che noi ad esempio abbiamo avuto su Genova 22 sciacalli in buona parte che venivano in campo rom, hanno fatto un processo per direttissima, non hanno fatto un giorno di galera, due giorni dopo erano in giro a prendere in giro la pattuglia della polizia che li aveva arrestati. Insomma, lei dice su questo tema, cioè, però io dico nel concludere, poi dopo il traffico do gli ascoltatori, facciamo tutti attenzione, cioè un fatto di cronaca che non ha preso le prime pagine dei giornali, ma la stampa invece vi ha dedicato giustamente, secondo me, spazio, è che ci sono due ragazzi o tre ragazzi di 20 anni che l'altro giorno sono entrati in un bar, hanno incrociato un rumeno e solo per il fatto di aver incrociato un rumeno l'hanno fermato e gli hanno tagliato due dita. Così raccontano i giornali, per una questione evidentemente di vendetta, per dargli allo straniero, cioè è questo il timore, il rischio che un po' si può esacerbare gli armi. Dica. Però il problema è la legge e che ci sia una legge, perché se uno va in giro e taglia due dita a un rumeno deve finire in galera e deve non uscire dalla galera. Ma certo, il rumeno se taglia due dita all'italiano deve finire in galera e non uscire dalla galera. Però ci si può anche porre la questione, il dibattito, se tutto questo non sia anche dovuto anche agli operatori dell'informazione, mi ci metto il primo io tra questi. Comunque ringrazio Emanuele Fiano, ringrazio Edoardo Rixi e l'avvocato Antonio Gugliotta, il traffico e poi sono degli ascoltatori. Eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, vi avrei voluto dar la parola, ma visto un traffico in cui abbiamo scoperto che anche le mulattiere della Sardegna erano occupate e trafficate, abbiamo scoperto che anche il Sannio si dice Sannio per due volte, ringraziamo la collega del traffico che ha esondato come una diga della Cina. Sento solo Pietro da Roma. Allora, Pietro, scusate, sono molto incazzato. Dica Pietro. Buongiorno. Dica Pietro, buongiorno. Solo lei ci sta. Buongiorno, sono Pietro da Roma. Ecco, io volevo dire una cosa. Ormai per fortuna questo problema è stato preso un po' di punta da televisione, radio, e in questi periodi non si fa altro che sentire. Adesso però l'impressione che almeno provo io, penso anche gli spettatori, è che non si vuole sempre rincorrere una soluzione, ma poi alla fine effettivamente a livello politico non si vuole trovarla, perché in pratica tutti gli esponenti politici sono d'accordo nel fatto di chiuderlo, rispettando sì, rispettando i diritti umani di queste persone, perché ovviamente di esseri umani si parla, sì, che però appunto non vogliono sottostare a nessuna regola. Adesso io però Pietro si fermi perché sennò esonda anche lei e non ce la facciamo. Dai, vi lascio con la segreteria telefonica, almeno divertitevi con questa. 0246524492, la nostra segreteria telefonica. A domani, ciao. Alino, smettila di parlare di pensioni, nessuno ti ruba nulla, dati da fare, cerca di far trovare soldi da altre parti perché ci sono. La decisione di Carlo Ancelotti di non andare al Milan è stata: sono troppo stanco. A Carletto, ma se tu fossi rimasto al Real Madrid o ti avessi chiamato, che ne so io, il Chelsea o il Manchester City, avresti detto le stesse cose? Alessandro Milan, sei sempre più cretino. Invece di augurare di morire agli anziani, perché non auguri di crepare a quelli che queste leggi non le fanno? Idiota. Caro Milan, come stai, ci vuoi cancellare le pensioni, te e quelli da avvenire? Ma digli a quelli da avvenire che invece di cancellare le pensioni, se cancellassimo l'8 per mille non sarebbe meglio? Così, è una cosa semplice. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.